Intanto non è una notizia nuova, perché a questo risultato stanno lavorando, come abbiamo più volte denunciato, da molti anni. Diciamo che la conclusione di un ciclo, un primo ciclo, restando aperta la questione dell'Ucraina e della Georgia, sulla quale è secondo me presto per dire come andrà a finire, perché c'è un conflitto in corso e prima che quel conflitto non termini difficilmente questa partita si chiuderà in un senso o in un altro. Qual è il giudizio complessivo? Il giudizio complessivo è che purtroppo dopo l'89 l'Occidente, a partire dagli Stati Uniti, perché l'Europa fino a un certo punto ha avuto un atteggiamento differente, poi ci tornerei, invece che prendere atto che era finito un duopolio mondiale del sistema economico e di potere, e quindi di sciogliere un'alleanza che non aveva più senso, ha deciso di rafforzarla per ottenere l'obiettivo strategico del mantenere la supremazia che aveva ottenuto. Questo purtroppo, come si è visto in questi ultimi 20 anni, determina un aumento del rischio di guerra un po' in tutto il globo. La guerra in Ucraina, per esempio, è una delle conseguenze non solo di questo, ma anche della tendenza espansionista della NATO. L'Europa si è opposta fino a un certo punto. Ricordo che Prodi, Merkel e allora, se non ricordo male, Sarkozy, cioè Italia, Francia e Germania, fino a metà degli anni 2000 hanno opposto una contrarietà europea all'allargamento della NATO. La cosa era abbastanza ovvia dal punto di vista europeo. Questo rafforzamento della NATO significa anche un rafforzamento del controllo statunitense sul continente europeo, cosa che oggi viene accettata tranquillamente. In anni passati qualche governo aveva cercato di limitare. Oggi purtroppo l'Europa si è allineata e il risultato è, fra l'altro, appunto questa ulteriore adesione recente della Svezia, con questo scambio in mondo con la Turchia. Questa è un po' la situazione. Purtroppo questo rafforzamento determinerà, da un lato, la prosecuzione della guerra in Ucraina e potrebbe determinare in futuro altri conflitti un po' in tutto il mondo. Ma a tuo avviso perché l'Europa ha cambiato orientamento? Lo sai tu? Scusa la domanda, è difficile dirlo, perché è talmente evidente che la posizione europea attuale sulla vicenda della NATO e della guerra in Ucraina è contraria non agli ideali, ma proprio agli interessi materiali economici dei paesi europei, che invece in un rapporto con la Russia potevano mettere in piedi, come dire, uno scambio tecnologia contro materie prime che sarebbe stato favorevole a tutte e due le aree economiche. Per cui è difficile dire che cosa è stato a cambiare questa posizione europea, che era ovviamente, come sempre nella storia, moderatamente contraria, però insomma aveva bloccato per anni l'espansione della NATO, che si è rimessa in moto realmente soltanto nell'immediata precedenza dello scoppio di questa guerra in Ucraina. Però capire perché c'è stato questo è una cosa che forse dovranno fare gli storici. Se le alleanze militari purtroppo si allargano, c'è un tentativo, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, di allargare invece anche il fronte della pace. In particolare, appunto, poche settimane fa c'è stato questo incontro internazionale a Vienna, tu hai partecipato. Come dire, chi sostiene la pace, le forze che sostengono la pace, anche se vengono un po' oscurate dai media, sono presenti? Sono presenti, lo dimostrano i 400 delegati da 40 paesi che ci siamo riuniti a Vienna per discutere un po' il da farsi. Sono presenti in tutti i continenti, con diversi accenti e diverse griglie di lettura che derivano dalla diversa posizione dei paesi, dei popoli sullo scacchiere globale. Devo dire che rispetto agli anni dell'opposizione alla guerra in Iraq, quindi della grande manifestazione mondiale del 2003, il movimento per la pace è oggi più debole, ed è probabilmente più debole perché questa guerra in Europa è più complessa di quelle precedenti, si presta a diverse interpretazioni, richiede una capacità di lettura di sfumature che è più complessa, e questo si riflette nella forza dei movimenti pacifisti un po' in tutta Europa. L'Italia, da questo punto di vista, con le sue decine di manifestazioni locali, piccole ma comunque decine, che continuano tutte le settimane, è ancora il paese più mobilitato contro la guerra. Però comunque questa mobilitazione c'è in tutti i paesi, e culminerà il 30 di settembre tra il 30 di settembre e l'8 di ottobre in una settimana di mobilitazione mondiale per il cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati.